2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 23 ottobre 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile al termine della nostra trasmissione attraverso il servizio podcast di Radio 24, un ottimo servizio per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it. Entrate nella parte dedicata al podcast oppure entrate direttamente tra i programmi all'interno di 2024. Oggi parleremo, tra le altre cose, di digitale terrestre, scoprirete tra poco il perché, ma partiamo dai siti internet italiani, quelli che hanno dominio.it. Hanno raggiunto quota 2 milioni questa settimana e sono raddoppiati negli ultimi 5 anni. Il dominio.it è oggi al quinto posto in Europa, la classifica dei paesi europei per numero di domini è guidata dalla Germania, con il suffisso .de, seguita da Inghilterra.uk, quindi .uk, poi c'è l'Olanda, .nl, e l'Unione Europea, che ha un proprio identificativo, che è il .eu. I nomi a dominio sono un po' come i negozi su una via importante, ed ecco allora che un nome facile da ricordare può valere milioni di dollari. Abbiamo dedicato in passato molti approfondimenti ai nomi a dominio. Il record è stato segnato, a proposito di milioni di dollari, questa settimana da sex.com, per il quale sono stati pagati 13 milioni di dollari. Il dominio battuto all'asta apparteneva ad una società finita in bancarotta, una società americana. Tra le notizie della settimana segnaliamo la bocciatura di Bruxelles all'aumento delle tariffe di unbundling, poi spieghiamo di che cosa si tratta, tariffe proposte dall'Authority Italiana delle Comunicazioni. L'unbundling, questo brutto nome, è la quota che gli operatori alternativi pagano a Telecom Italia per l'utilizzo della rete in rame, quindi per portare la DSL, internet, nelle case raggiunte da questo servizio. Un aumento di queste tariffe si potrebbe banalmente riversare sul costo della DSL. L'Unione Europea dice che l'aumento proposto dall'Agicom non è adeguato e crea dei rischi per gli operatori alternativi. Questo aumento era stato fortemente criticato dagli operatori alternativi, quindi vedremo poi come saranno rimodulate le tariffe. Un'altra notizia che arriva da Bruxelles riguarda la Corte di Giustizia Europea, che interviene sull'equo compenso. In alcuni paesi, lo ricordiamo, le società che tutelano i diritti d'autore, in Italia ad esempio la SIAE, ricavano milioni di euro dall'applicazione di questo compenso. La ratio è la seguente: se uno fa una copia di una canzone acquistata regolarmente, magari su CD o su un hard disk, su quel supporto si applica questo compenso per ripagare l'artista per questa copia che viene fatta. Alcuni giudicano questo sistema di compensazione un po' antiquato, un po' medievale. Comunque il problema si è sempre posto, soprattutto in particolare per l'utenza professionale, ma certo ci si chiede anche perché mai un padre di famiglia che fa una copia delle fotografie di suo figlio dovrebbe pagare la SIAE. Per quale motivo non si sa. La Corte, ma di questo abbiamo parlato più volte, sono intervenuti molti esperti, e comunque questa settimana, un paio di giorni fa, la Corte ha detto che l'equo compenso è applicabile solo su supporti utilizzati per fini non commerciali. Quindi ora diamo in pasto la sentenza agli esperti e vedremo come anche in Italia verrà recepita e quali modifiche verranno adottate. Prima di parlare di digitale terrestre, vi ricordo che se avete un iPad, da pochi giorni è disponibile sull'App Store della Apple la Vita Nova, il nuovo iMagazine per iPad del Sole 24 Ore, quindi da provare, sicuramente da scaricare dall'App Store. Adesso parliamo di digitale terrestre, perché dalla prossima settimana, da lunedì, inizierà una fase graduale che durerà un paio di settimane, che riguarderà in questi prossimi giorni la Lombardia, il Piemonte orientale, le province di Parma e Piacenza. Poi dal prossimo mese, ma avremo modo di riparlarne, riguarderà il passaggio alla tecnologia digitale terrestre l'altra parte dell'Emilia-Romagna e il Triveneto. Inizierà il cosiddetto switch off, cioè lo spegnimento delle frequenze, delle vecchie a questo punto frequenze analogiche, per passare alla nuova tecnologia digitale. Per parlare di tutto questo è con noi il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Grazie Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordo che Gianfranco Giardina guida e dirige una redazione che realizza ogni giorno, ogni ora, potremmo dire, D-Day Magazine, il magazine online sulla tecnologia, www.dday.it. Partiamo proprio da questo termine non bellissimo, switch off, cioè spegnimento semplicemente, che è un processo graduale, non è che lunedì mattina si spengono tutte le frequenze vecchie analogiche e si passa completamente al digitale terrestre. Ricordiamo che stiamo parlando di Lombardia, Piemonte orientale, province di Parma e Piacenza, per il momento. Poi fra un mese tutti... Veneto, anche il Triveneto e poi arriverà anche il resto dell'Emilia-Romagna. Sì. È uno spegnimento che prevede, richiede degli interventi specifici fatti proprio sugli impianti di trasmissione, quindi dei tecnici devono andare sulle singole antenne a cambiare delle cose e quindi non può essere gioco forza una cosa assolutamente in contemporanea. In queste, diciamo, due settimane, che poi sono leggermente spostate da zona a zona, ma comunque più o meno il processo dura appunto due settimane, pian piano tutti gli impianti vengono convertiti, quindi si spengono tutte le trasmissioni analogiche tradizionali. Questo significa che i vecchi apparecchi di per se stessi non sono più in grado di sintonizzare alcun canale, quindi si vede la solita nebbia su tutti i canali e si passa alle trasmissioni soltanto digitali, per i quali è richiesto o un TV con il digitale terrestre integrato, quindi compatibile con il digitale terrestre, o un decoder esterno. Quindi questo è importante, quando ormai l'abbiamo detto da anni che lo diciamo, però va ribadito perché ogni tanto qualcuno lo chiede, non bisogna cambiare necessariamente la TV, basta un decoder e basta anche un decoder da 20 euro, giusto? Sì, i decoder, proprio gli zapper, cosiddetti zapper, che quindi sono i decoder, diciamo, più di base, e quelli più economici costano proprio solo qualche decina di euro, va anche detto che danno anche prestazioni da qualche decina di euro. Certo. Niente di trascendentale, probabilmente vanno benissimo per un TV secondario, piccolino, forse per TV più importante vale la pena di spendere qualche euro in più, stiamo parlando veramente di raddoppiare da 20 a 40 euro la spesa e prendere un apparecchio con delle funzionalità migliori. Stiamo parlando di digitale terrestre a 2024 in occasione del passaggio a questa diversa tecnologia nei prossimi giorni, a partire da lunedì in Lombardia, che è una regione che ha 10 milioni di abitanti, quindi sicuramente questo passaggio riguarda parecchie persone, parte del Piemonte, il Piemonte orientale, e anche una parte dell'Emilia, ovvero le province di Parma e Piacenza. Naturalmente le frequenze non è che vanno dietro ai confini precisamente, ci sarà qualche chilometro di differenza e qualche sfumatura sui confini. Tuttavia queste sono le aree coinvolte, un aspetto importante da tenere in considerazione, non tanto perché siamo appassionati di frequenze, è proprio la rimodulazione che c'è e ci sarà sulle frequenze, cosa che riguarda, se non sbaglio Gianfranco, il nostro impianto di casa, quello di ricezione, cioè l'antenna. Sì, assolutamente sì, bisogna stare molto attenti e non neanche preoccuparsi eccessivamente. Ci sono molti utenti che sono preoccupati perché dicono, io adesso sul digitale terrestre per esempio non vedo il buche Rai o non vedo il buche Mediaset, tanto per fare un esempio, quando spengono l'analogico a quel punto non vedrò più quei canali. La cosa ovviamente non è così, perché le frequenze utilizzate oggi per l'analogico vengono poi riutilizzate per il digitale, quindi una volta che si spegne non è che quelle frequenze vengono spente e basta, vengono spente e riconvertite sul digitale, e quindi ci sarà tutto uno spostamento di canali, per cui si garantisce e si garantirà in linea di massima, poi ci sono delle eccezioni che vanno poi viste di caso in caso, ma si garantirà a tutti di vedere tutti i principali canali, quindi una copertura più ampia possibile di tutti i canali, utilizzando anche le frequenze attualmente utilizzate per l'analogico. Cosa significa questo? Che chi ha chiamato l'antennista per fare un adeguamento dell'impianto, per puntare tutti gli impianti dai quali venivano trasmessi digitale terrestre e filtrare altre frequenze, può trovarsi dopo lo switch off a dover richiamare l'antennista per fare non un intervento complicato, non dovrebbe corrispondere a una grande spesa, anzi, ma una riconfigurazione dell'impianto per riagganciare correttamente tutte le frequenze del nuovo assetto delle frequenze dopo lo switch off. Quindi probabilmente, anche se dopo lo spegnimento qualche canale non si vede, ecco, non è il caso di preoccuparsi allarmarsi eccessivamente. L'unica cosa, bisogna probabilmente rivedere l'impianto centralizzato. Perfetto, dico due cose giusto per ricapitolare, sebbene ho capito. Prima di tutto, questo intervento non è necessario, può essere necessario se qualche canale manca. Seconda cosa importante, aspettare almeno queste due settimane, tre settimane, cioè diciamo se fra un mese uno effettivamente, almeno parliamo delle zone dove, certo, dove sarà in atto da lunedì lo switch off, per Emilia Romagna e il Triveneto parliamo invece della fine di novembre fino a circa la metà di dicembre, quindi diciamo se uno dopo un mese dall'inizio di questa fase proprio non vede un canale o due o un bouquet addirittura, ecco, allora a quel punto si preoccupi un po'. Sì. Perfetto. Sulla qualità dei decoder, dicevamo, insomma, che tipo di prestazioni possono dare o non dare quelli da 20 euro? Io vorrei comprare un decoder, addirittura ce ne sono alcuni molto piccoli che vanno attaccati alla presa SCART, quindi si nascondono, non si vede nulla, ma alcuni amici che ho sentito hanno fatto questo acquisto e hanno detto ma però magari ci mette un po' di tempo a cambiare canale, insomma non è il massimo. Beh, allora in alcune situazioni il valore della marca un pochino più famosa, diciamo così, magari è totalmente influente. In questo caso è un pochino più influente e semplicemente per la disponibilità degli aggiornamenti. Ecco, questi decoder spesso richiedono degli aggiornamenti software, firmware, che sono importanti anche perché magari cambia la modalità di trasmissione dell'emittente piuttosto che alcuni piccoli parametri. E per avere buona compatibilità molte volte sono richiesti degli aggiornamenti. Questi aggiornamenti i principali produttori addirittura li mandano via etere, quindi il decoder si aggiorna via etere senza fare nulla. In altri casi rendono disponibile l'aggiornamento su un sito internet, per cui se dispongono di una porta USB, per esempio, basta copiare l'aggiornamento su una chiavetta USB e lanciare l'aggiornamento. Ma se il marchio è un marchio inesistente o quasi, ce ne sono un pochino di prodotti di provenienza cinese di questo tipo, beh, contare su un aggiornamento firmware è francamente è impossibile, quindi a quel punto si compra una macchina che funziona, ma se ha un qualche piccolo problema non ci sarà probabilmente nessuno disposto a sistemarlo, e questo può essere un problema. Quindi qualche euro in più speso da questo punto di vista non dovrebbe spostare, come delle finanze familiari, però sicuramente elimina qualche problema. Poi ci sono degli aspetti di termini prestazionali, quindi per esempio il tempo di cambio canale, che è una cosa importante. Okay. Sì, perché quando si passa dal TV al TV analogico, diciamo, all'accoppiata TV più decoder, non si cambia più canale sul telecomando del TV, ma lo si cambia su quello del decoder, cioè si accende il TV e poi si cambia sul telecomando del decoder. Ecco, da questo punto di vista, avere un cambio canale rapido, sappiamo tutti come si fa zapping, e queste macchine normalmente vengono proprio chiamate zapper proprio perché permettono di cambiare canale. Fanno solo quello. Sintonizzano tutti i canali e permettono di cambiare canale. Il tempo, diciamo, se si riesce a provarlo in negozio, tanto di guadagnato, avere qualche certezza. I prodotti dei migliori produttori garantiscono prestazioni di questo tipo. E poi bisogna anche dire di stare molto attenti, ecco, ai nostri ascoltatori per quanto riguarda le funzionalità cosiddette LCN. È una sigla che di per sé non dice nulla, ma che identifica i prodotti che gestiscono l'autonumerazione dei canali. Cioè, tipicamente, Rai 1 sull'1, Rai 2 sul 2, Rai 3 sul 3, Rete 4 sul 4 e così via. Secondo una numerazione classica che un po' tutti abbiamo a casa, almeno dei canali principali. Perché è importante? Perché spesso e volentieri sul digitale terrestre tocca risintonizzare tutti i canali. A volte i decoder lo fanno anche in autonomia perché vengono pubblicati nuovi canali sui bouquet, quindi è importante avere sempre un aggiornamento dei canali. Se ho la funzione LCN, ogni volta che risintonizzo i canali si risistemano autonomamente e quindi praticamente non devo fare niente. Se invece non ho la funzione LCN e i decoder più economici non ce l'hanno, Mi trovo Rai 1 sul 10. Praticamente lui occupa le memorie secondo la scansione delle frequenze. Quindi parte dalla prima frequenza e incomincia a riempire tutte le memorie. Quindi magari trovo dei canali assolutamente non interessanti nei primi numeri e sono costretto tutte le volte, è un'operazione che non si fa una volta sola, ma ogni volta che riaggiorno le frequenze, a fare tutti gli spostamenti a mano. Una noia incredibile, per cui a quel punto anche i 10 euro in più sono strapagati il tempo che ovviamente si risparmia. Ricordate... Quindi, controllare sulla confezione che ci sia scritta compatibilità LCN. Sì, diciamo che a tal proposito l'organizzazione nazionale che ha riunito tutte le TV, cioè parliamo di Rai, Mediaset, Telecom, La 7 e tutti gli altri broadcaster, si è più o meno messa d'accordo, adesso poi ci sono molte polemiche anche su questo, per una numerazione standard, cioè esiste in Italia una numerazione ufficiale di tutti i canali che è quella poi che viene organizzata attraverso questo sistema LCN. Sì, si sta litigando ancora su alcune posizioni, alcune posizioni, però prima o poi ci si arriverà a definire anche le posizioni dopo il numero 7, tanto per intendere, però quelle, diciamo, le prime sette sono fissate, e perché c'è una lotta tra alcuni broadcaster nazionali e le TV locali che originariamente dovevano essere dal 10 in poi, quindi stanno ancora discutendo, ma ci si arriverà, tempo un mese, tempo due mesi, tempo tre mesi, una volta che ci si è arrivati però si ha un decoder che è in grado Diciamo anche che poi se uno sul 2 vuole mettere Italia 1, può farlo, cioè manualmente si possono spostare le cose. Sì, sì, assolutamente. Questo nella numerazione LCN vale anche per i TV. Sì. Quindi i TV col digitale integrato chiaramente, anche loro possono essere LCN compatibili oppure no. La stragrande maggioranza, per non dire quasi la totalità, dei modelli attuali sono LCN compatibili, ma soprattutto in questi momenti di switch off, quando c'è un grande ricorso agli acquisti, possono arrivare sul mercato dei prodotti magari di marchi non molto conosciuti che arrivano da paesi esteri e quindi magari trascurano questo standard che in questo caso è utilizzato in Italia. Quindi è sempre bene sincerarsi. Un'altra cosa molto importante, visto che stiamo parlando di switch off che avviene in questi mesi e che abbiamo detto si dovrebbe spingere addirittura fino al 15 di dicembre, ricordarsi che in queste settimane, normalmente con il ponte di ogni santi, tanto per intenderci, incomincia la grande kermesse degli acquisti natalizi. Sì. E quindi i negozi si riempiono di persone in cerca di informazioni, in cerca di richieste, e tra l'altro anche gli acquisti, ricordiamo che nel mese che va dal 15 di dicembre, dal 15 di novembre al 15 di dicembre, si fanno quasi un terzo degli acquisti di elettronica di consumo di tutto l'anno. Quindi più ci si porta avanti, più si ha la garanzia di essere un po' più assistiti nel momento dell'acquisto e soprattutto di trovare il prodotto che magari si cerca, quello che fa per sé. Più si va verso il Natale, più ci si deve accontentare di quello che è rimasto, anche perché sappiamo che dopo una certa data anche le consegne da parte dei produttori, la logistica si blocca. Quindi addirittura molto... se uno aspetta un po' è meglio rimandare a gennaio. Sì, però resta fino a gennaio senza vedere la TV. Certo, vabbè, non è gravissimo. Sempre la radio. C'è sempre la radio. Oppure internet. A proposito di avete sentito, questo è interessante ed importante, quanto un acquisto che può sembrare banale e poco significante, il decoder, uno dice vabbè costa 20 euro, 40 euro, vado, prendo il primo che capita, quanti problemi può dare un decoder che non soddisfa certe condizioni, anche questa della numerazione, ad esempio non la sapevo ed è un'indicazione importante. C'è un'altra caratteristica anche che va sottolineata, forse alcuni decoder permettono di correggere il volume, proprio il volume audio, dal telecomando del decoder, quindi permettono di attenuare il volume. Questo è comodo innanzitutto perché ancora sul digitale terrestre si trovano dei canali con dei livelli di volume molto differenti, quindi alcuni che sparano più forte, che sono più normalizzati e quindi sono più bassi come volume. E poi perché il passaggio TV più decoder dal solo TV crea questo fastidio, e penso soprattutto alle persone anziane o chi comunque vuole la vita un po' più comoda. Bisogna accendere il TV dal telecomando del TV, accendere il decoder al telecomando del decoder, cambiare i canali al telecomando del decoder, ma se c'è da correggere il volume, tornare al telecomando del TV, alzare e abbassare il volume. Sì, un caos. Ecco, per esempio, se il decoder dispone del controllo del volume, questo è un grande passo avanti, perché permette, soltanto operando sul telecomando del decoder, anche di abbassare il volume quando è troppo alto. Seguiteci nel pomeriggio del sabato su Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure se vi perdete la nostra puntata o magari vi siete sintonizzati da qualche minuto, potete recuperare, perché online esiste un sistema molto intelligente, un ottimo sistema per riascoltare le puntate, oltre che poterle scaricare direttamente dal nostro sito internet, esiste anche una modalità molto innovativa che è quella del podcast. Ci sono software che gestiscono questi servizi e vi permettono di scaricare in maniera automatica, se lo volete, o anche manuale, comunque settimana dopo settimana vi permettono di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione ed essere magari abbonati a più servizi podcast e ascoltare tante trasmissioni, sia di Radio 24 ma anche in generale magari di radio americane o di radio in lingue che voi conoscete. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre ai nostri tecnici che curano anche la messa online del podcast, quindi del file MP3 della nostra trasmissione. Stiamo parlando di digitale terrestre, abbiamo fatto varie ipotesi nel caso si acquisti un decoder per metterlo in accoppiata con una vecchia TV che vogliamo ancora mantenere in vita. Ne stiamo parlando con Gianfranco Giardina, che è responsabile del magazine online dday.it. Senti Gianfranco, tutti i vari problemi che ci possono essere, comunque le attenzioni che dovremmo avere quando andiamo a comprare un decoder per il digitale terrestre, ecco, di tutto ciò siamo esentati se invece compriamo una TV che ha già integrato il decoder, quindi questi problemi non ci sono? O alcune ce le possono? No, no, non ce li hanno, hanno una soluzione che è integrata, quindi con un telecomando solo, è sicuramente la soluzione ottimale. Anche che la però, numerazione? Anche la numerazione, quando parliamo delle marche conosciute, è ormai c'è completamente gestita, e nella stragrande maggioranza dei casi sono gestite anche le trasmissioni in alta definizione, che adesso ci sono soltanto in pay TV, quindi l'offerta Mediaset Premium, tanto per intenderci, e che però potrebbero arrivare presto, non appena saranno liberate le frequenze dell'analogico. Ecco, sì, liberando le risorse di trasmissione, ecco che potrebbero arrivare dei canali in alta definizione. E quindi avere un TV, questo vale anche per i decoder, attenzione, già pronto per l'alta definizione significa non doverlo poi cambiare successivamente. Sì. È chiaro che quando compro il TV col decoder integrato, beh, devo stare molto attento. Quando compro invece solo il decoder, al limite, peggiore delle ipotesi, nell'istante in cui sarò interessato all'alta definizione, o cambio soltanto il decoder, o magari a quel punto sarà arrivato il momento, la voglia di cambiare anche l'intero TV che si era mantenuto affiancandogli il decoder. Se uno entra in un negozio oppure navigando in internet dà un'occhiata alle offerte dei negozi online, vedrà che ci sono tantissimi tipi di decoder diversi, al di là della qualità, al di là anche dei prezzi, insomma dei prodotti base. Poi ci sono i decoder che permettono di vedere i canali a pagamento, quindi hanno lo slot per la fessura per la carta con cui io pago questi programmi. Ci sono quelli abilitati, come tu dicevi, per l'alta definizione. Poi ci sono anche tutta una serie di decoder, ma qua forse andiamo un po' sul complicato, che permettono di vedere la TV via internet, sono tipicamente quelli offerti dai produttori, dalle telecom del caso, insomma, che permettono però anche di vedere il digitale terrestre. Si rischia di non capirci più nulla. Sì, può essere complicato. Un modo per orientarsi è quello di seguire i bollini che ha previsto il consorzio di GTV, quindi il consorzio che ha standardizzato le trasmissioni digitali in Italia. Sì. Sono anche qui, a mio avviso, troppi bollini, perché in questo momento 5 a crescere, poi tra le altre cose, quindi che sono grigio, bianco, blu, silver e gold, quindi sono i vari colori a crescere di prestazioni. Però sappiamo che se c'è già il bollino grigio, vuol dire che siamo di fronte a uno zapper, quindi permette soltanto di cambiare canale, però compatibile con l'LCN, quindi con la numerazione unica e di uno standard qualitativo quantomeno accettabile. Ecco, sotto il bollino grigio, onestamente, andare, chiunque lo fa, cioè, lo senza, fa proprio rischio e pericolo. Senza bollino, ok. Però comincia già a essere una garanzia per chi non vuole neanche documentarsi troppo, se vede già il bollino grigio sa che non avrà un decoder interattivo, non avrà un decoder pronto per l'alta definizione, quindi soltanto definizione standard, però già compatibile con l'LCN e di una certa qualità. A crescere il bollino bianco che aggiunge anche la compatibilità con la CAM e quindi la possibilità... Qua apriamo il capitolo CAM. Sì, che cos'è la CAM? Allora, la CAM è un modulo nel quale si infila, tanto per intenderci, la carta di Mediaset Premium, la più diffusa, piuttosto che quella di Dahlia, oppure che è l'altro gestore. Sì. Dahlia. Sì. Adesso la 7 non ha programmi in pagamento. No, adesso c'è Dahlia. E quindi questi sono i due gestori che fanno pay TV sul digitale terrestre. Per leggere questa card o serve un decoder già pronto, ma andiamo a parlare quindi dei bollini blu e silver e gold, oppure c'è bisogno di decoder una CAM, quindi questo modulo, che può essere infilato in tutti i TV. TV nuovi, digitali. Sì. Cosa vuol dire? C'è questo alloggiamento, se io compro questa CAM e la card chiaramente, infilo la CAM con la sua card nell'alloggiamento del TV e il TV può accedere anche alle trasmissioni a pagamento senza bisogno di alcun decoder. Questo perché è un TV nuovo di quelli digitali compatibili con questo tipo di servizi. Altrimenti ci sono i decoder che accettano questa CAM, okay. O addirittura i decoder che già integrano il modulo di decrypt, quindi quelli che sono tipicamente MHP come sigla, e nel quale si infila direttamente la card, cioè, senza nessun bisogno. Diciamo, quello col bollino bianco accetta, cioè è abilitato ad accettare la CAM. Sì, certo, abilitato ad accettare la CAM. Quindi questo, e bisogna comprare a parte. Che bisogna comprare a parte, certo. Che caos. Caos, anche perché stiamo parlando di troppi bollini, troppe tipologie e soprattutto anche troppe sigle, perché CAM, CARD, LCM, MHP, Common Interface, insomma è un mondo complicato che però, siccome riguarda tutti, non dovrebbe esserlo. Purtroppo ci troviamo noi a fare questo tipo di cronaca. Siamo cronisti in questo caso. Sì, certo. Dipendesse da noi non sarebbe così. Sì, certo. Non siamo responsabili. Anche perché se poi, qui accenno e basta perché non voglio complicare eccessivamente, se volessimo però avere la certezza di essere compatibili con le trasmissioni in alta definizione a pagamento, che già ci sono. Le partite in alta definizione e il film in alta definizione, ecco, dovremmo sincerarci di avere la CAM compatibile con l'alta definizione, che è diversa. Quindi, sincerarci che l'alloggiamento nel quale va questa CAM sia un alloggiamento Common Interface Plus col più. Se non c'è quel più, allora non funziona più, scusate il gioco di parole, e quindi la cosa si complica incredibilmente. Diciamo che per l'utenza base in questo momento la scelta è quella di andare verso la bassa definizione, purtroppo, perché andare verso alta definizione crea troppi dubbi e quindi non si sa bene che cosa comprare, anche se chiaramente l'esperienza di visione in alta definizione è completamente diversa. Tu vai nei negozi e fai qualche test ai commessi? Perché io non so se tutti i commessi sanno tutte queste cose, dovrebbero saperle. Sì, dovrebbero saperle, molte volte le sanno, soprattutto su questo tipo di prodotti, anche perché è sperimentato come sulla loro pellaccia, per mettere il termine, perché siccome questo tipo di prodotti in questo momento viene venduto a chiunque, gente esperta e gente meno esperta, è chiaro che poi qualsiasi problema il cliente torna in negozio e quindi si cerca di fare la massima chiarezza al di là della buona volontà anche per sopravvivenza dell'addetto vendita. Sì. Il problema in realtà è che se chiunque di noi voglia chiedere un'informazione o fare un test, anche come quello che dicevi tu, fa bene andare, non so, di mercoledì mattina, di giovedì pomeriggio, non si presenti di sabato pomeriggio, perché sabato pomeriggio è strutturale. Ascoltate la radio, ascoltate noi. però è strutturale, che è veramente difficile avere delle informazioni, ma al di là della preparazione dell'addetto vendita, proprio per il tempo che può dedicare. È un momento in cui c'è l'assalto a forte pancia, ecco, tanto per intenderci. Quindi è già tanto se questi ragazzi, che nella stragrande maggioranza dei casi sono molto bravi, riescono a rifornire gli scaffali, a scrivere tutte le bollettine che servono per tirare la merce in magazzino, eccetera, eccetera. Certo, poi naturalmente parliamo delle grandi superfici di vendita, poi ci sono anche per motivi territoriali o anche di affezione i piccoli negozi dove spesso, insomma, si trova magari un'assistenza un po' più precisa. Assolutamente. E magari un servizio ulteriore, perché magari c'è anche l'antennista che viene a casa e ci fa il lavoro. Sì, anche perché quello che non si pensa mai è che, per esempio, tornare a casa con un decoder per attaccarlo al TV magari può servire qualche cavetto in più, può servire un po' di assistenza, può servire magari semplicemente anche solo una ciabatta, perché si passa da una presa di corrente a due, perché bisogna attaccare anche il decoder alla corrente. E quindi anche qui si apre un gran capitolo. Si apre anche il capitolo dei consumi. Che potremmo affrontare, in generale consuma di più un'accoppiata TV decoder rispetto a una TV integrata? Ne consuma di più, perché normalmente il decoder non è una macchina così intelligente come il TV. Quindi il TV, quando viene messo in stand-by, effettivamente va in uno stand-by. Un TV minimamente moderno consuma al massimo un watt quando è in stand-by. Quindi un qualche cosa costa. Se lo tenessimo tutto l'anno in stand-by senza spegnerlo mai, costerebbe, diciamo, 1,50 euro, quindi di corrente, no? Quindi poca roba. I decoder invece sono macchine spesso più stupide, e anche quando li mettiamo in stand by loro restano magari più o meno accesi, completamente accesi, anche perché, come dicevamo prima, arrivano gli aggiornamenti via etere e quindi arrivano di notte, quindi loro devono essere in qualche modo accesi per ricevere questi aggiornamenti. Questo vuol dire avere un consumo fisso di 6, 4, 5, 8 watt, e quindi avere una spesa che può arrivare fino a 10 euro l'anno solo per avere lo stand-by attivo. Quindi questo significa, molte volte corriamo dietro dei risparmi di 5 euro e non ci accorgiamo che magari ne spendiamo 10 euro di corrente semplicemente per aver preso un apparecchio che è un po' meno curato da questo punto di vista. Incredibile. L'ultima parte di 2024, vi ricordo che la prossima settimana, tra gli altri approfondimenti, vi proporremo un'intervista ad una startup che abbiamo incontrato a SMAU all'interno dei percorsi dell'innovazione di cui abbiamo parlato in questa settimana. Parleremo di radio online, e vi proporremo questo approfondimento su Spreaker, questa startup che vi offre l'opportunità di fare una piccola radio online. Beh, piccolo o grande, poi lo decideranno gli ascoltatori. Se sono molti diventa una grande radio, se sono pochi rimane una piccola radio. Questo la prossima settimana. Adesso chiudiamo questa puntata dedicata al digitale terrestre, visto che da lunedì inizierà gradualmente la fase di spegnimento delle vecchie frequenze e il passaggio definitivo alla tecnica digitale, quindi alle nuove frequenze digitali per i servizi televisivi terrestri. In Lombardia, Piemonte orientale e nelle province di Parma e Piacenza. Dalla fine del prossimo mese toccherà invece al resto dell'Emilia-Romagna e al Triveneto, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Parliamo di videoregistrazione, questo è un capitolo molto interessante, perché anche in questo caso cambiano molte cose, sia i videoregistratori ma anche le TV che hanno il decoder integrato, sia i decoder per il digitale terrestre, sia le TV che integrano il decoder, quindi la logica per interpretare i canali del digitale terrestre, possono in alcuni casi videoregistrare, ma le cose, vorrei chiederlo a Gianfranco Giardina, non sono purtroppo così semplici come quando, con il mio vecchio registratore analogico, io lo attaccavo alla scarta e videoregistravo in tranquillità. Vero Gianfranco, le cose non sono così facili. Sì, non è propriamente così. Allora, la funzione viene chiamata PVR. Eccola, perché, lì, ecco, un'altra sigla. Personal Video Record. E uno si chiede anche perché c'è una sigla nuova per una funzione che di videoregistrazione. Dimmi che video registra. No, questo personal video recorder effettivamente dà un po' le dimensioni un po' più limitate della registrazione che si può fare. Infatti con la stragrande maggioranza degli apparecchi, c'è qualche eccezione ma pochissimo, questi, sia il decoder che i TV, possono videoregistrare normalmente su delle chiavette USB, quindi su delle memorie USB che vanno inserite sul TV o sul decoder esternamente, e possono registrare i programmi, diciamo fino adesso praticamente tutto tranne i programmi in pay TV, quelli non si possono registrare. Il vincolo qual è? Che possono essere rivisti questi programmi solo e soltanto sull'apparecchio che li ha videoregistrati. Quindi non è che io prendo poi la chiavetta USB, la sposto su un computer o la sposto su un'altra, no, assolutamente. Posso, praticamente vengono codificati con la chiave del decoder o del TV stesso, e soltanto quel decoder o quel TV è in grado di riprodurli. Quindi serve proprio per una visione personale, ecco perché il personal sigla. Video recorder. Quindi tipicamente o al massimo family. Famiglia. Tipicamente registro una trasmissione che non sono impossibilitato a vedere in quel momento per rivederla in un altro momento, sì. Diciamo non per conservarla, anche perché poi magari uno cambia il decoder, cambia il TV e quindi non si può più vedere. Va anche detto che la registrazione è una registrazione però molto buona qualitativamente, forse come non è mai successo, perché in realtà non viene fatta una nuova codifica del segnale, viene proprio preso lo stream digitale che arriva dall'antenna e viene memorizzato così com'è sulla chiavetta. Quindi quando io rimando in play quel contenuto registrato, vedo precisamente con la medesima qualità che avrei visto se l'avessi visto in diretta. Okay. Quindi questo è molto buono. Va chiarito un aspetto che ha tratto molti utenti in inganno sui decoder, che ne esistono parecchi, col cosiddetto dual tuner, cioè col doppio sintonizzatore, che è tipico, ideale, che permette quindi di vedere un contenuto e nel frattempo registrarne un altro, su un altro canale. Sì. È molto utile da questo punto di vista. Qualcuno ha pensato di poter registrare così contemporaneamente due cose. Invece? Questo, insomma, non tutte le macchine possono farle, ma sicuramente c'è un problema dovuto al fatto che è un doppio tuner, ma non ha il doppio decoder. Quindi qualcuno pensava di poter mandare su una SCART un segnale e sull'altra SCART un altro canale. E quindi poter, per esempio, videoregistrare col vecchio videoregistratore. Cioè usare questo decoder, per uno per vedere, con una SCART vedere un canale. Sì. E con l'altra SCART mandare il segnale a un altro videoregistratore. Allora, questi decoder hanno il doppio sintonizzatore, quindi si sintonizzano su due canali. Però non hanno il doppio decoder, non sanno decodificare contemporaneamente due canali. E quindi a cosa serve il doppio sintonizzatore? Servono per prendere lo stream digitale che arriva dall'etere e memorizzarlo sulla chiavetta. Ah, ho capito. Quindi possono videoregistrare autonomamente un'altra cosa loro. Loro, non mandarla fuori. Quindi non serve per salvare il vecchio videoregistratore. Okay, qualcuno han preso quello pensando, io con un decoder solo salvo la vecchia TV, ma salvo anche il vecchio registratore. No, ci vuole in quel caso un decoder separato, che però due decoder insomma hanno un costo che incomincia a diventare un pochino più importante. C'è una moltiplicazione dei telecomandi che insomma è creato questo del doppio tuner, ha creato qualche delusione in molti utenti che pensavano così di aver trovato la vera soluzione per salvare entrambe le cose, ma così non è, perché poi alla fine quello che si può fare è salvare gli stream digitali sulla chiavetta e poi rivederli tramite decoder. Su chi vuol salvare il vecchio videoregistratore e continuare a usarlo come faceva prima, deve prendere un decoder separato dedicato al videoregistratore. Sì, che però è un po' una follia, perché poi fai fatica. Aggiungiamo un telecomando e poi c'è un altro problema. Chi volesse farlo, stia attento a prendere, per esempio, due decoder diversi, uno per il TV e uno per il videoregistratore. Perché scambia i telecomandi? No, perché se no, chiaramente quando cambia canale su uno, cambia canale anche sull'altro. Giusto. Perché se hanno lo stesso telecomando, quindi sembra una stupidaggine, ma deve cambiare marca obbligatoriamente. Incredibile. Vabbè, potremmo continuare a parlare per 8 ore, ce la facciamo. Sì. Beh, sicuramente anche ci sarebbero più. Anche domande per altrettanto. Sì, tempo. Sì. Compiti a casa, ci sono un po' di sigle da imparare: LCN, MHP, PVR, Common Interface e Common Interface Plus o Plus, e poi abbiamo anche forse altre. Sì, beh, tanto per intenderci, se uno vuol capire tutto sui bollini dovrebbe andare sul sito www.dgtvi.com. quindi, punto it, quindi una cosa, un'altra sigla ancora, ancora più complicata, punto it, per saperne di più. Insomma, è un mondo complicato che per persone che non sempre sono disposte a complicarsi la vita. Bene, naturalmente voi su dday.it parlerete nelle prossime settimane, nei prossimi giorni di digitale terrestre. Abbiamo parlato già molto, ci sono delle guide già in linea che permettono di orientarsi sia nella scelta del decoder che nella scelta del TV. Bene, sui decoder non abbiamo affrontato il capitolo dei decoder evoluti, perché recentemente notizia che abbiamo anche dato, che voi avete dato sul vostro sito internet, Europa 7 ha lanciato questo nuovo decoder che serve per ricevere i canali di questa TV Europa 7, che trasmette con una tecnologia nuova che è il DVB-T, che sta per digitale terrestre 2. Ecco. Sì, è l'ennesima sigla. Esatto. L'ennesima sigla. Sì, però è una TV soltanto pay, soltanto a pagamento, e chi vuole vedere questi canali deve necessariamente prendere anche il decoder. Adottare il decoder di questi. Bene, Gianfranco, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro e in bocca al lupo a tutti per queste settimane prossime per il passaggio al digitale, ma sicuramente avremo modo di riparlare presto. Grazie mille, a presto. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche a chi ci scrive, a chi utilizza il servizio podcast di Radio 24, grazie ai nostri tecnici, ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel sabato pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.